Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Rosarno, 7 gennaio. Milano, 13 febbraio 2010. Le rivolte degli immigrati. Vi ho visto voi uomini neri ammassati dentro scrostati silos di cemento, dentro baracche marcescenti, dentro container congelati, dentro casolari abbandonati senza tetto, senza finestre, senza letti, senza materassi, senza bagno, senza acqua potabile. Rivoltati nella sporcizia, sommersi da rifiuti, riparati dietro pneumatici, assi di legno, giornali di anni passati, passati a sperare una vita migliore. Ma la vita migliore non è arrivata, non c'è mai stata, siete finiti nei moderni campi di cotone, solo che ora voi uomini neri al posto del cotone raccogliete arance d'inverno, meloni e cocumere d'estate. 20 euro per 12 ore di lavoro, gli insulti, le minacce, la schiena a pezzi, le mani gonfie e sanguinanti. Nessuno che vi curi se vi succede di stare male, e se invece vi succede di morire vi buttano in un campo, in un fosso, vi abbandonano in mezzo a una strada. Siete merce, né tanto che un prodotto finale della fame del mondo. Ho sentito uno di voi dire, qua viviamo troppo brutto, ma qua, in quest'Italia, ci viviamo anche noi. E anche noi ci viviamo troppo brutto. Non così brutto come voi, certo. Abbiamo le nostre case e le nostre auto. Le nostre famiglie non stanno a migliaia di chilometri. Ma non siamo un paese civile. Non lo siamo mai stati, ma lo saremo. Siamo noi l'Africa d'Europa, con il nostro inestinguibile debito pubblico. Siamo noi la Colombia d'Europa, con la cocaina che scorre a fiumi. Siamo noi la Haiti d'Europa, con i nostri paesi ancora da costruire dopo i terremoti e con le nostre case fatte di sabbia che crollano da sole d'improvviso. Come ogni giorno crolla l'idea di vivere in un grande paese. Migliaia di morti di mafia, migliaia di morti di camorra, centinaia di poliziotti, di carabinieri e di giudici ammazzati non ci sono ancora bastati. Il sangue non ci basta mai in questo paese. Ora vogliamo il vostro sangue, ma il fatto che sia rosso come il nostro, sono pronto a scommetterci, non piacerà a qualcuno. Vi ho visto voi uomini neri. Paolo Grugni, in libreria con Italian Sharia, Perdisa, 203 pagine, 14 euro.